Signore e signori, buonasera. Un'altra Radio Roma presenta. Guarda che palcoscenico naturale. Qui potete fare quello che vi pare. Quello che vi pare. Costruire degli eventi per dei gruppi sotto licenza Creative Commons e a seguire DJ set. Ma che devi far risuonare? Altra radio, io. Roma. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Ma ammazza che casa, Roma. Un'altra radio Roma. Radio Roma. Vedo io 20 serate. Ma chi? Fabio Bonno. Azza! Chi? Ammazza che casa. Prima perché sono un signore e signore si nasce e io lo nacqui modestamente, caro signore. Roma. Salve a tutti, dai microfoni dell'Altra Radio Roma parla Mister Gasperino, che si accinge a presentarvi un podcast addizionato ad un esperimento. Quindi un pod addizionato a un Gasperino, un pod più un Gasperino, dà come risultanza un pod Gasp. Oggi ho voglia di farvi avvicinare a un genere musicale a me molto caro, il jazz. Tra un brano e l'altro, oltre a scoprire gli artisti, vi darò informazioni e curiosità su questo genere. È un po' come stappare una bottiglia di buon vino, pertanto mettetevi comodi e prestatevi a subire una sbornia di jazz. Ringrazio Coriandolo perché la maggior parte dei brani che ho scelto proviene dalla sua compilation. Ritenendo l'arte cosa indivisibile dalla cultura, intervallerò questo lavoro con scritti e sketch o recitati di scrittori e comici. Il primo contributo ce lo dona Pierpaolo Pasolini con Alla mia nazione, narrata da Vittorio Gassman. Successivamente il primo artista che ci andremo ad ascoltare è romano ed è Pasqualino Ubaldini, con diversi dischi all'attivo su Giamento. Ci presenta un brano suonato con l'amico Paolo Pavan, tratto dall'anonimo album Ci andremo ad ascoltare Girovaghi notturni. Buon ascolto. Radio Roma. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo. Thank you. girovaghi notturni. Nasce dall'esigenza di descrivere il mondo degli emigranti, delle intolleranze culturali e delle lontananze mentali che fin troppo spesso sfociano in episodi di violenza, a cui non ci dobbiamo abituare. La diversità e lo scambio sono tra le prime forme di crescita e condivisione. La paura del diverso genera isolamento, chiusura e atrofizzazione del pensiero. Ho voluto raccontare questo, io che vivo a Roma e che frequentemente mi imbatto in episodi che rappresentano tale regressione. Ho voluto raccontarlo semplicemente ed ancora con i miei strumenti che testimoniano la voglia e la bellezza dell'acquisire, non solo suoni, ma modi di vivere ed esperienze. Immaginato una zingarata, un vagabondaggio notturno, un tragitto che dovrebbe accompagnare ogni essere umano nel suo naturale sviluppo. Ho pensato a questo viaggio di notte, in momenti e situazioni in cui lo sguardo risulta maggiormente focalizzato verso alcune ombre, che magicamente prendono vita e raccontano la propria realtà, i propri viaggi, le proprie storie. Storia da raccontare, un tragitto percorso, una valigia che si portano dietro, la propria vita. Sicuramente fatta di sbagli, ma non per questa priva di emozioni e sentimenti e non calpestabile. Un pensiero a quei girovaghi notturni che come me affondano i passi nei selciati bagnati, oppure ai bordi di un parco, sopra una panchina, in un bicchiere di vino. Ai ragazzi che suonano, a chi ha trovato o perso il suo amore, a chi spera in un piacevole incontro, a chi è incazzato e a chi è solo ma lo è sempre stato. Tutti hanno una storia, tutti dobbiamo rispettarla. Da qui iniziano i più bei viaggi. È dall'inizio di questo podcast che tento di accostarvi, farvi incuriosire dalle sonorità del jazz. Un passaggio che io ho fatto per apprezzare questo genere musicale è stato quello di cogliere le cose più semplici nel brano come un motivo musicale che si ripetesse, che continuasse. È Roberto Daglio di Pavia che ci regala suoni freschi e solari con boom boom. Ricordi il motivetto che si ripete del tipo... Scherzando e gustandoci ancora un sorso di vino, andiamo ad ascoltarci questi suoni che provengono dai locali parigini. Composti da un piano, una chitarra, un basso e una splendida voce femminile, suonano dal 2003 e hanno due dischi all'attivo. Ci ascoltiamo i That's My con Call Me That's My. Andiamo avanti così. Cerco di darvi alcune nozioni per farvi avvicinare, per farvi innamorare a questo tipo di musica. Ai primi anni del Novecento, al sud degli Stati Uniti, dove convergevano le influenze musicali della comunità afroamericane e europee, nasce il jazz. Per un critico di musica classica, Giulio Confalonieri, il jazz è stata la musica più vitale, libera e rappresentativa dell'epoca contemporanea. Ha diversi dischi all'attivo, è argentino, si chiama Gustavo Grochenci e ci stiamo gustando Jazz Bar. Thank you. prossimo è un artista italiano, viene da Alessandria e in attività dal 1983. Ha diversi album all'attivo e direi veramente, veramente deliziosi. Per farvelo conoscere, utilizzerò un suo pensiero. Con il tempo ho cominciato a far ricerca delle sonorità che sento più mie. Una scala cromatica che più si avvicina ai miei stati d'animo, che spaziano spesso tra l'euforia e la depressione più totale, dando sfogo a pezzi di rara tristezza e a momenti di grande allegrezza. A voi lascio l'arduo compito di giudicare quanto scritto. Grazie a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio. Walter Mazzaccaro con Eternity. Allora, come va questo esperimento? stiamo andando avanti con il nostro podcast, podcast di jazz. E per assaporare meglio il vino che abbiamo aperto all'inizio, direi di andare ad ascoltare una formazione che viene dalla Federazione Russa. Sono insieme dal 2006 e ci presentano Be Free. Loro sono i Do-Hub. N-R-R. Un'altra radio Roma. Yeah. Dal punto di vista della tecnica musicale, il jazz moderno è caratterizzato dall'improvvisazione di note blues, da poliritmie e da progressioni armoniche. Ci stiamo ascoltando Luc Bartoli, è in attività dal 2000, è francese, suona in diverse formazioni. Sorseggiamolo con One Shot. Thank you. Buonasera. Ah! Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in questo momento c'è una grande crisi, c'è grosse crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo. Qua la gente non sa più quando stiamo andando su questa terra. Qua la gente non sa più quando stiamo facendo su questa terra. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono contenta di rivederla. Lei è il profeta di quella nuova religione. Io sono un messia. Sì. E porto la parola. Sì, la parola di... Come la si parola di... Quello. Ah, ecco, quello. Ma lo sa che molta gente ci ha chiamato per saperne di più su questa nuova religione? È piaciuta. L'ho detto, c'è molta crisi. Sì. C'è molta violenza. La gente ha bisogno di credere in qualcosa. Senta, ha ragione. Capito che è? Sì. No, non mi ricordo. Ci può ripetere cosa c'è in questa nuova religione? Ma per adesso c'è quello. Sì, certo, c'è quello. Però mi aiuti a ricordare. Cos'era? Mi sembra un dio. Un dio, sì, un dio. Proprio un dio. Ma che cosa fa? Aiuta a risolvere i problemi? Oppure sì. Dà una speranza al genere umano? Ci rende più partecipi della vita degli altri? La seconda che hai detto. La seconda? La seconda, com'è? L'hai detto te? Sì, dà una speranza al genere umano? Ecco, sai che fa quello? Dà una speranza al genere umano. Ho capito, ma scusi. Lui sì. Dà una speranza. Scusi, ma lei scrive sempre al genere quello che dico umano. Io. Dica almeno com'è la preghiera di quello. Ma la preghiera è tipo chiede che qualcosa si sistema bene, oppure chiede che una certa cosa sì. Va molto bene. Sì, vabbè, lo so. Oppure lo so. Che ne so, sì. Io chiedo che, sì, ma che io ne so, che è una cosa. Sì, lo so cos'è la preghiera in generale, dicevo la sua, di quello. Lei parla col suo Dio, come fa? Certo scusi. Che parlo. Pronto? Ogni giorno milioni di persone chiamano per parlare con quello. Pronto? Vabbè, scusi, però pronto è un po' poco per una preghiera. Adesso, scusi, eh. Ho capito, ma mica posso fare tutto io qua, eh. Vabbè, ma uno si aspetta qualcosa di più. Uno ho capito, ma c'è molta crisi. Te lo sai oggi ancora mi sono svegliato? Alle 7:15. Vabbè, ma che c'entro io, scusi? Col traffico che c'è al centro, sono arrivato alla stazione alle 9. La bambina ha ancora vomitato. Vabbè, mi spiace. Molta crisi. Ho capito. La gente qua non sa più quando stiamo andando su questa terra. Sì, vabbè, però scusi, lei si presenta al pubblico in internet con una nuova religione, si deve organizzare un pochino di più. Ma la gente, guarda che te c'hai grossa crisi, eh. Ma lei accende speranze e poi non dà risposte. Guarda che te c'hai molta crisi, eh. Te non sta più quando stai facendo su questo mondo, su questa terra. Capì? NRR Radio Roma. Ci stiamo ascoltando Oscuro, composto dal maestro Allughi. Questo quartetto dal nome Matt è formato da Fabrizio Bosso alla tromba, Marcello Allughi al sax tenore, Ermanno Baron alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra. bene bene, sorseggiamo ancora un goccio di vino e andiamo ad ascoltare un amico dell'altra Radio Roma. Lui è Paolo Pavan e si presenta con il suo quintetto, con al saxofono Davide Marinacci. Il brano è Looking for a Way Out. Buon ascolto qui su queste frequenze. Thank you. andiamo avanti con questo esperimento musicale. Il prossimo gruppo viene dalla Germania e si chiama A14 Ace e ci presenta I Don't Need You, You, You, You. Inizialmente il jazz serviva per svincolarsi dalle rigide regole della musica classica. Anche nei titoli o nei testi dei brani, spesso si usavano termini gergali di difficile traduzione, il cui significato si differenziava da quello normale, con doppi sensi e sfumature più o meno hard. In questa forma liberale, anche Wellang francese, con diversi dischi all'attivo, ci lascia una libera canzone. Ci ascoltiamo, sono Liberty. We'll be right back. stiamo giungendo alla fine di questo podcast e anche il vino sta terminando, per dire il vero. La formazione che sta suonando per noi in questo momento è del Regno Unito. Si chiama Tracing Arcs. Incomincio intanto con il ringraziare tutti gli artisti che hanno prestato la loro musica. Quella che stiamo ascoltando si intitola A Pig and a Cow. Get along so easy and so nice. If I was on my own, I could live so well. I could get along so easy and so was on my own, I could live so well. A couple of acres, a pig and a cow. Won't you just tell me if that is all right? And just you and me, working every day, just working out our dreams. It seems a long way from where we want to be. Seems so far, but hey, who knows, who cares? It's gonna be what it's gonna be. A couple of acres, a pig and a cow. Just let me know if you feel it's good any. So easy, anyhow. A pig and a cow. Siamo così giunti al termine di questo podcast e spero di avervi fatto avvicinare a quello che è il mondo del jazz, non tanto per le mie capacità, in quanto per la bravura degli artisti. Per coloro che erano già afferrati in materia, spero di aver presentato degli artisti nuovi e validi altrettanto come quelli che già conoscono. Ricordo i nostri contatti per chiunque volesse appunto entrare in comunicazione con noi. La nostra email è naltraradio@live.it, il nostro blog è www.naltraradioroma.blogspot.com. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e lasciarvi con un ultimo brano, quello degli Oprachina, anch'essi nostri amici. Stiamo lavorando insieme con alcuni di loro, che molto presto vi sveleremo un segreto, Il brano si intitola Torti. Arrivederci a tutti. Dove è stato? Cosa ha fatto? Con chi ha parlato? Berlusconi, da quando ha chiesto il permesso di costruire Milano 2 a quando gliel'hanno dato? E questa sera io voglio raccontare una favola su Berlusconi. Vai col tappeto musicale. Berlusconi. Berlusconi è un uomo che si è fatto tutto da solo. È nato addirittura all'insaputa dei suoi genitori, che l'hanno trovato una mattina in salotto che leggeva Il Sole 24 Ore. E gli hanno detto: chi sei? Sono Silvio, vostro figlio. Un bambino che diventerà un uomo che costruirà un giorno Italia 2, un'oasi del verde a 5 minuti dalle bombe di Sarajevo. Questo bambino, quest'uomo, Berlusconi, a un certo punto vince e vincerà tutto. Comprerà tutto. E quello che comprerà e che vincerà ne farà quello che vuole, lo cambierà. Comprerà la Costituzione italiana, la cambierà. La farà riscrivere da Mike Bongiorno. E il primo articolo della Costituzione allora dirà: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro? Avete 20 secondi di tempo per rispondere. Così dirà il primo articolo allora, quando tutto sarà cambiato. Sarà comprato tutto per questo. Sarà comprato comici. Sarà comprato ballerine. Sarà comprato calciatori. Sarà comprato giornali. Sarà comprato tutto quello che poteva comprarsi. Un bel giorno si accorse che non poteva comprare più niente, perché aveva già tutto. E non poteva sognare più niente, non poteva sognare di avere una casa in Sardegna. Già tutta la Sardegna era sua, l'aveva anche spostata a Segrate per stare più comodo. Non poteva pensare di amare una donna bellissima, perché se le era già fatte tutte. Questo non so se è vero, però comunque ha avuto più possibilità che un tornitore dell'Alfa. Terzo, non poteva sognare. non poteva sognare di vincere una coppa, aveva già vinto tutto, l'invincibile l'aveva vinto, e non potendo più sognare non dormì più, e non potendo dormire più incominciò a deperire, dimagrire, svilirsi, e cercò la causa della sua sventura, e pensandoci e ripensandoci la trovò. Era successo un giorno, questo giorno era il 5 maggio 78, dove Berlusconi prese la tessera della P2 numero 625 pagata 100.000 lire. Voi vi domanderete: dov'è la chiusa comica? Non c'è nessuna chiusa comica, l'unica chiusa è la mia, che non lavorerò più a Canale 5. Ragazzi, nar nar nar nar tra Radio Roma è tornata. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. C'è tempo per noi, né nessuno. Ma proprio nessuno. C'è tempo, non è. Bastardi. Buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gasperino. Buonanotte a DJ Bruttolo. Buonanotte DJ Dogo. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo.